Enna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno da parte di Filippo Glorioso, un grazie come sempre a tutti quanti voi che siete sempre in ascolto di CRM Happy Radio, che è la radio che si sente e si vede. Si vede perché potete seguirci su internet, non soltanto in Italia ma ormai in tutto il mondo. La frequenza 101.4, per chi volesse invece entrare su Facebook con noi, ci siamo, vi aspettiamo, scriveteci oppure andate su www.crmepiradio.it. Lì troverete tutto quello che riguarda il nostro palinsesto, i nostri programmi, anche quelli di podcast e naturalmente quelli che vanno in diretta con On Air. Allora, giornata caldissima, una settimana di intensi bombardamenti solari, speriamo che un po' la temperatura scenda, non dico per chi deve andare a mare perché ha bisogno di abbronzarsi, per chi sta in pienissima salute, ma è un problema per gli anziani e per i disabili, ma anche per i bambini. Fate attenzione ai colpi di calore, non mettete in esposizione gli anziani, non mettete in esposizione cardiopatici, coloro i quali hanno delle patologie un pochino pesanti. Per tutto il resto, novità in assoluto, l'unica nota lieta che ci arriva è quella della nostra benemerita nazionale di calcio, con il nostro amatissimo Pirlo e il nostro amatissimo portierone Gigi Buffon, il quale insomma ha regalato insieme a Pirlo a tutta la squadra, devo dire è stato un momento stoico, hanno regalato all'Italia il passaggio nelle semifinali. Questa sera alle 20:45, quindi alle 9:15, ci sono le Panzer Division tedesche che vogliono riprendersi la rivincita delle due sconfitte scottanti, da cui l'ultima a Dortmund, non c'è due senza te, dice il nostro carissimo amico fonico dall'altra parte, ringrazio che mi assista alla parte tecnica, Santino, che saluto e ringrazio sempre per la sua grande disponibilità. Mi faceva ricordare un cenno molto eloquente, non c'è due senza tre, i Panzer Division sono stati fermati dall'armata russa e dal fango e dalla neve in Russia nell'inverno tristissimo di San Pietroburgo degli anni 45, quindi il secondo conflitto mondiale. Speriamo invece che questa sera si impantanino nel nostro centrocampo, che sarà sicuramente un assalto alla baionetta, insomma ci aspettiamo che i tedeschi sono arrabbiatissimi con noi gli abbiamo portato via la finale in Germania, la semifinale in Germania a Dortmund, li abbiamo spodestati nella loro casa, insomma, se vogliamo, lo so, tra due, ma insomma una cosa straordinaria. Però questa sera attendiamoci veramente sciabola sguainata, carica del settimo cavalleria o della panza Division comandata da Schweinsteiger, insomma questi cognomi un po' impronunciabili per noi latini di lingua neolatina, però voglio dire è una bella squadra. Adesso, a parte le battute, ci temono anche se non lo dicono in maniera molto aperta, ma veramente è chiaro che hanno questo senso di rivalsa nei nostri confronti e nel contempo hanno anche paura del nostro estro creativo, no? Noi italiani poi abbiamo questa possibilità di mettere a frutto nell'essere stoici, nel lottare, nel combattere, avere i neuroni sempre attivi e tirar fuori dal cilindro chissà un Balotelli, chissà un Pirlo stesso, un altro cucchiaino di miele, insomma ce lo può fare anche gustare. È un momento topico per l'Italia nel senso generale, ma quantomeno da questo punto di vista questa sera ci possiamo rilassare, non pensare ai problemi che ci assillano sia di salute che economici in questo momento, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Ieri sera la prima semifinale Spagna-Portogallo, un Portogallo bisogna dire molto tosto, ben messo in campo, ha fatto trincea, ha attaccato, ha contrattaccato, insomma non ha dato grandi possibilità alla Spagna di esprimere al meglio il proprio gioco, il palleggio, il fraseggio tra di loro. Iniesta è sempre il solito grande campione, ma tutta quanta la squadra poi ai rigori e alla lunga è uscita vincitrice, quindi il Portogallo del grande Ronaldo, che ieri sera ha mancato un gol clamoroso, ahimè si è dovuto arrendere alle Furie Rosse, così chiamata la squadra spagnola. Questa sera come finirà? Io faccio un pronostico, 2-1 per l'Italia. Speriamo che sia così e ce l'auguriamo tutti. Gigi, dobbiamo far così, se no qua che famo, i disfattisti. Loro c'hanno i Panzer e noi abbiamo un po' di furbizia. Mettiamole in campo, io credo molto nelle forze fresche come Nino Cerino, insomma, che a centrocampo ha fatto vedere un bel gioco, De Rossi che si è in fase di ripresa, si spera che il nervo sciatico non gli crei ancora fastidio, ma comunque Nocerino è pronto a scendere in campo, lo stesso Chiellini l'abbiamo recuperato alla grande, poi ancora in panchina, insomma abbiamo delle forze abbastanza fresche, anche se i due giorni meno di riposo e anche se qualche acciacco c'è tra le nostre file, però speriamo che insomma l'Italia ce la faccia. fatta questa premessa, tra poco avremo degli ospiti qua in studio. Avremo ospiti telefonici, tre personaggi importanti, la dottoressa Paola Castiglia, che è l'organizzatrice di Legambiente per quanto attiene questo convegno. Legambiente presenta i percorsi di solidarietà e ambiente, alta fruibilità per non vedenti in area di valenza naturale. Di cosa si parla? Intanto è domenica e lunedì 1 e 2 luglio, Legambiente presenterà a Cefalù i due percorsi per non vedenti e ipovedenti, realizzati nell'ambito del progetto Solidarietà e Ambiente, attraverso il quale sono stati realizzati i primi itinerari ad alta fruibilità per soggetti con disabilità visive in area di importante valenza naturale della Sicilia. I percorsi sono stati creati nella riserva della Macalube di Aragona, in provincia di Agrigento, gestita da Legambiente Sicilia, nel parco urbano della Rocca di Cefalù, gestita dall'Associazione del Cigno fino al 2007. Quindi grazie va alla sensibilità della dottoressa Paola Castiglia, che tra poco sentiremo al telefono, mentre in studio dovrebbe raggiungerci tra poco il dottor Culotta Salvatore, che è il presidente del Legambiente locale. Cefalù Fiorita, di cosa stiamo parlando? È un concorso che si chiama Cefalù Fiorita, appunto, Villaggio Pescatori, Contrada Spinito, Contrada Santa Lucia, Centro Storico Cefalù Nuova Espansione e Sant'Ambrogio. Categorie che possono concorrere sono privati cittadini, operatori commerciali, associazioni. Dal 1 luglio al 30 settembre, premiazione giorno 6 ottobre 2012. Regolamento su www.comune.cefalù.palermo.pa, non Palermo, pa la sigla della capitale della Sicilia, .it. Pagine Facebook Comune di Cefalù. Concorso fotografico a tema dal 1 luglio al 20 settembre. Concorso pittorico a tema dal 1 luglio al 20 settembre. Naturalmente auguriamo a tutti i partecipanti il massimo impegno e soprattutto buona fortuna, in bocca al lupo. Detto questo, io direi di dare la linea alla regia. Facciamo una pausa musicale, pausa pubblicitaria della regia, e poi al rientro parleremo con uno degli ospiti via telefono, in attesa che arrivino gli ospiti qui in studio. Linea. Eccoci un'altra volta in diretta. Vi ricordo che state ascoltando Carta e Penne, studio Filippo Glorioso. Al console c'è Mister Santino, il quale si sta ben marcando, insomma sembra uno della Panzer Divi di stasera che affronteranno. È un bravissimo tecnico, un ragazzo molto pimpante, dinamico, eccetera. Allora, grazie anche a Santino, perché ci sta seguendo in maniera veramente straordinaria e ci sta supportando alla parte tecnica. Intanto ci raggiunge il primo ospite della trasmissione, ve lo presento subito. È il dottor Culotta Salvatore, che è il presidente della locale sezione di Legambiente. Grazie intanto per essere arrivato, buongiorno a lei. Se mi aprite il microfono, grazie. Allora, il dottor Culotta, eccolo qui. Buongiorno ancora, buongiorno, grazie per essere con noi. A voi e grazie a tutti gli ascoltatori di CRM. Allora, intanto lo metto un attimino in stand-by, una bruttissima parola, lo lascio riposare un attimo, si rinfreschi un attimo. Intanto io ho un ospite telefonico ed è un professore valente, 45 anni di insegnamento in una scuola alberghiera. Oggi, visto che arriva l'estate, voglio toccare l'aspetto enogastronomico della Sicilia in confronto con le altre cucine. Io proprio ieri ho girato questa scuola alberghiera, dove ho avuto il piacere di incontrare questo decano, questo insegnante, insomma, che riesce ad amalgamarsi benissimo con le nuove generazioni, anche se sono scalpitanti, un po' scapestrate, però insegna soprattutto sala significa come si serve ai tavoli, come si prepara il tavolo, come si apparecchia, eccetera. Detto questo, se qualcuno ritiene che la cosa sia poco interessante, invece ritengo che sia interessantissima, perché una sana cucina predispone a un sano cibo e un sano divertimento a tavola, e questo poi ai fini di salute, insomma, voglio dire, ne risponde in pieno il nostro organismo. Se non sappiamo cucinare, se quando andiamo al ristorante non gustiamo le cose che ci preparano e non siamo nelle condizioni di fare delle critiche, allora lì bisogna un attimino stare veramente attenti con tutte le malattie gastroenteriche che arrivano. Intanto mi facendo una regia che il professor Luciano Burreschi è pronto e sta rispondendo al telefono. Grazie professore per essere intervenuto. Buongiorno intanto. Pronto? Pronto. Professore, buongiorno, mi sente? Sì, sì. Ah, perfetto. Dicevo ai radioascoltatori fuori onda, cioè nel senso sì, fuori onda con lei, sì, ancora non ci eravamo sentiti, che io ieri ho avuto il piacere non soltanto di visitare la vostra scuola e interagire, sì, con i ragazzi che sono il primo anno, ma soprattutto il piacere di incontrare un decano come lei, che da 45 sì, anni circa, insomma, continua imperterrito nella sua professione di insegnante. E che insegnante! Professore, noi radiofonicamente abbiamo dei tempi molto succinti, molto stretti. Sì, sì, sì, sì. Allora, ieri in una in una fase di discussione così tra noi, si parlava di cucina siciliana che è molto ricca, molto pesante, soprattutto per l'estate, per chi viene a gustare i nostri piatti. Diamo un suggerimento invece, secondo lei, per chi volesse affacciarsi, non da siciliano, ma anche per noi siciliani, per un'estate che si preannuncia molto calda, quindi per evitare l'appesantimento, cosa dovremmo eliminare dalla nostra succulenta cucina e cosa dovremmo invece proporre? Evitare diciamo così, che ci siano dei sughi troppo pesanti, ma delle paste anche leggere, perché non si può, per esempio, in un menù mangiare dall'antipasto, dal primo al secondo e poi al dessert finire con troppi dolci e cose, ma bisogna evitare fare dei piatti molto leggeri, per esempio a base di pesce, che possono essere, diciamo così, freschi e facilmente digeribili. Senz'altro, perché col caldo che abbiamo, specialmente nella nostra terra di Sicilia, quindi diventano pesanti. Professore, lei ha portato in alto, insieme a dei collaboratori validissimi, enologi, gente che si interessa di gastronomia regionale, internazionale, ha portato in alto in tutta Italia, ma anche all'estero, il buon nome dell'enogastronomia siciliana. Sì, noi siamo stati ultimamente in Sardegna e abbiamo presentato Bacco e l'Agnello, che era il tema di questo concorso enogastronomico che si è svolto nel mese di maggio, dall'11 al 14 di maggio, che abbiamo portato il secondo premio, diciamo che abbiamo fatto il concorso con dei proprietari di ristoranti, persone diciamo così di grande esperienza, e un ragazzo di questi ha portato il secondo premio. Siamo stati premiati anche l'altro giorno dal presidente della regione. Questo è un aspetto importante. Facciamo un altro paio di domande e poi devo passare un altro ospite, professore. Sì. Senta, io ieri ho avuto il piacere di incontrare alcuni dei suoi ragazzi che sono al primo anno. Lei insegna sala. Sala significa servizio di sala. Esatto, si insegna come ci si serve ai tavoli, come si apprecchia il tavolo. Come si presenta al cliente e quale può essere, diciamo così, il consiglio da dare ai clienti quando vengono al ristorante. Ecco, professore, per esempio, un'altra cosa che vorrei dire. Prego. Che ci sono delle persone che fanno una dieta continua, e andando al ristorante non sanno cosa mangiare. Bisogna anche preparare questi ristoratori che possono dare dei suggerimenti tali che la gente si possa trovare a proprio agio. Professore, una domanda a secco: i giovani, le nuove generazioni che si affacciano ad abbracciare il palmarès straordinario della nostra cucina, perché è un palmarès di tutto rispetto e di tutto riguardo, di levatura internazionale la nostra cucina mediterranea, insomma, la dice lunga. Secondo lei le nuove generazioni hanno la possibilità di estrinsecare e di migliorare ancora di più quella che è l'enogastronomia, il fiore all'occhiello della nostra Sicilia? Hanno buona volontà, guardi, le posso dire che hanno buona volontà, certo bisogna seguirle, ma non bisogna abbassare mai la guardia, continuare senza dubbio a preparare questi giovani, perché hanno la volontà di farlo, hanno bisogno però di aiuto. Noi nel passato forse ci siamo un po' cullati, oggi hanno bisogno di maggiore aiuto. Ecco, senta, cosa manca secondo il suo, del suo punto di vista, cosa manca in Sicilia a livello di scuola come potenziamento, come stato di avanzamento, come inclusione di altri elementi importanti perché noi possiamo raggiungere veramente il gota della cucina internazionale? Noi dobbiamo lavorare in sinergia con gli albergatori, cercare di prendere questi giovani, però prendere quel prodotto che è stato già preparato, una preparazione di base già ce l'hanno, però devono avere una continuità, non possono essere mandati allo sbaraglio questi ragazzi, devono avere una continuità dei grandi maestri come c'era una volta. Quindi un tramandare, no? L'esperienza personale, ma soprattutto la grande scuola. Ma fare una preparazione di base, di scuola, e nello stesso tempo fare una continuità, perché la continuità, se si ferma, se il ragazzo non ha dei buoni maestri, certo che domani non potranno fare i vari maestri, i vari chef di cucina e via di seguito, i vari barman. Professor... Hanno bisogno di un grande aiuto, e quell'aiuto lo deve dare in collaborazione gli albergatori. Professore, l'ultima domanda: quanti alunni avete quest'anno iscritti alla vostra scuola? Abbiamo parecchie classi, noi non ci fermiamo solo a Palermo, ma abbiamo perché il nostro è un consorzio Eduform, educare e formare. Sono ragazzi che hanno abbandonato gli studi, che poi entro i 18 anni, perché c'è l'obbligo formativo, vengono nella nostra scuola per iscriversi entro il 18° anno e poi si prendono questa qualifica. Diamo l'indirizzo, professore, dove è ubicata la vostra sede centrale e poi La nostra sede centrale è ubicata in via Salgari numero 14 a Palermo, per orientarci vicino alla Coca-Cola. Grazie. Grazie a lei, professore, le auguro buon lavoro e buon'estate a lei e ai suoi ragazzi alla sua scuola. Grazie a lei, arrivederci. Allora, prima di passare la linea alla regia, come sempre, abbassiamo la musica, regia, grazie. Arrivederci, professore. Chiudiamo la telefonata. Dicevo, prima di passare la linea alla regia, bisogna parlare degli sponsor, senza i quali non sarebbe possibile andare avanti con questo programma, ma con un altro programma al di fuori della RAI che ha un canone di tutto riguardo. Quindi il clima ideale di Bruno Sergi lo trovate a Finale di Polina. Di cosa stiamo parlando? Intanto un centro assistenza caldaie della Yonke & Bosch, poi il centro assistenza autorizzato della ELM Leblanc, sistema depurazioni acque gel, acque da bere naturalmente con depurazione, pannelli solari che oggi vanno molto di moda, acqua calda a circolazione forzata o anche a circolazione naturale sempre della Yonke & Bosch, il sito www.ilclimaideale.com, telefono 0921 426 767 a Finale di Polina, caldaia con biomassa, firmato Tatano. Mi raccomando, il clima ideale di Bruno Sergi. Ancora Castelbuono, 2M Porte che arredano, perché vi parlo di questa grande azienda. Pensate, per andarli a trovare bisogna che prenotiate con una telefonata, il numero è 0921 677012 o 333 136 8016. Lo showroom è in via Cavour 74, cioè dove c'è l'esposizione delle porte, delle finestre, ma vi arredano anche la casa con mobili fatti su misura, come una cucina, la stanza da letto, dei comò, anche le zanzariere se il caso. Però prima telefonate e andate a visitare lo showroom in via Cavour 74 oppure la produzione in via Contrada San Calogero, sempre a Castelbuono in provincia di Palermo. Gamme porte d'interno, insomma, di ciliegio, di palessandro, oppure le porte in rovere massiccio, pensate a 600 euro incluso il montaggio. Poi ci sono anche le porte fuori misura, oppure l'arredo d'interni, come dicevo prima. Mi raccomando, 2M Porte che arredono, lo trovate a Castelbuono, vi dicevo, in Contrada San Calogero, il laboratorio e la produzione. Invece, per quanto attiene l'esposizione, lo showroom lo trovate in via Cavour 74. Adesso cedo la linea alla regia, mettiamo una brevissima pausa musicale, subito dopo parliamo con l'ospite in studio, con il dottor Culotta Salvatore, che è il presidente di Legambiente locale, per questa promozione, grazie anche alla collaborazione fattivissima della dottoressa Paola Castiglia, che sta organizzando questa situazione che è molto molto sensibile nei confronti degli ipovedenti e dei non vedenti. Linea alla regia. Libertà, grande cattedra. Quest'anno è ancora più bella e accogliente. Cefalù Fiorita 2012. Arreda con fiori e piante il tuo balcone, il tuo davanzale o l'ingresso del tuo negozio. Oltre a rendere più bella Cefalù, partecipi al concorso Cefalù Fiorita 2012. In concorso i sei quartieri di Cefalù e inoltre concorso fotografico e concorso pittorico. Dal 1 luglio al 30 settembre Cefalù Fiorita 2012. Privati cittadini, associazioni e operatori commerciali rivestiranno Cefalù di fiori e parteciperanno al concorso Cefalù Fiorita. Per informazioni e moduli per partecipare, rivolgersi all'ufficio turistico. Telefono 0921 42 15 57. Regolamento sul sito del comune e su Facebook. La manifestazione è organizzata dal comune di Cefalù in collaborazione con Vivai Cova, Hobby Garden, CRM Happy Radio, Centro Commerciale Naturale e l'Associazione Culturale Costanza d'Altavilla. Che bella Cefalù! Quest'anno è ancora più bella e accogliente. Cefalù Fiorita 2012. Come dicevo prima, l'avevamo già letto, Cefalù Fiorita, concorso per Cefalù, insomma è una bella iniziativa, speriamo che oltre a questo insomma, la nuova amministrazione possa dare sfogo a tutte le proprie idee, cassa permettendo, ma questo costa a costo zero, per cui voglio dire, cerchiamo di unire tutte quante le sinergie affinché questo volano possa riprendere a funzionare e a trainare come asse portante tutto l'intero Interland delle Madonie. Allora, in studio devo fare una correzione d'obbligo e naturalmente sono stato anche il re d'Arguito, pensavo ho fatto un errore, ma non è colpa mia, nel senso che mi era stato scritto dalla redazione quanto avevo detto prima, quindi correggo: il dottor Colotto Salvatore è il presidente del Centro Lega Ambiente Madonie, mentre è il dottor Mauro Caliò il presidente Lega Ambiente Cefalù. Dico bene, parlo esatto, correttamente esatto. Adesso perfetto. Allora, entriamo nel vivo di questa conversazione. Lega Ambiente, come tutti sapete, si occupa della cura dell'ambiente, quindi delle coste, dell'entroterra, dei boschi, tutto quanto. La prima domanda che mi sorge spontanea, visto che lei opera sul territorio madonita, nell'Interland del Parco delle Madonie, le chiedo che stato è la nostra flora e la nostra fauna. Diciamo che noi abbiamo la fortuna comunque di essere inseriti all'interno di un'area riconosciuta dall'assessorato territorio ambiente come parco naturale, per cui già diciamo questa scelta politica determina anche un grado di conservazione del territorio maggiore rispetto diciamo all'assenza di vincoli che si possono avere con i parchi e le riserve. Certo, c'è da dire che ci aspetteremmo molto di più da parte dell'ente parco, soprattutto in considerazione del fatto che da anni ormai non abbiamo un presidente, per cui di fatto questo ente c'è è sotto commissariamento, con tutto quello che il commissariamento implica in termini anche di impegni di spesa, di gestione, come dire, in prospettiva delle finalità del parco e quant'altro. Ciononostante però dobbiamo riconoscere che la politica di conservazione della natura in Sicilia, sia dal punto di vista legislativo che anche, come dire, per quello poi che la legislazione va a tutelare, ci colloca tra le prime regioni d'Italia, quindi diciamo tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti. Possiamo, sì, esatto. Senta, due domande che possono sembrare provocatorie, ma non lo so. Per capire noi comuni mortali, noi distanti, amiamo la natura, ma forse a volte ci indigniamo quando vediamo dei sacchetti di plastica o delle siringhe buttate lungo il lungomare di Cefalù, e non solo su quello di Cefalù, ma in tutta Italia succedono di questi misfatti, o peggio ancora quando si fanno le famose scampagnate, vedi, il 25 aprile nei boschi, no, dell'Interland delle Madonie, capita che vengono lasciate lattine eccetera eccetera sparsi, quindi ci vorrebbe ancora di più un senso civico maggiore e una maggiore sensibilizzazione anche da parte dei mass media, che dovrebbero continuare a bombardare la gente, a dire quando vai a fare un weekend cerca di lasciare pulito il posto come a casa tua. Quella è una questione di educazione. Certo. Le due domande provocatorie sono queste: spesso i politici, spesso i ministri addetti ai lavori, vedi quello per esempio il ministro dell'ambiente, dell'agricoltura o delle infrastrutture, entrati in rotta di collisione. Stiamo parlando, per fare un esempio, per far capire agli ascoltatori, della TAV. Da parte di Lega Ambiente, del WWF, spesso e volentieri c'è questo scontro portare. Berlusconi, quando era Presidente del Consiglio, diceva: in Italia non si può fare la ferrovia, non si può fare il doppio binario, non si può fare questo, non si può fare quello, perché Legambiente, perché gli organismi preposti al controllo, diciamolo in questo senso, della salvaguardia del territorio, spesso e volentieri cozzano, vanno in rotta di collisione con quelli che sono poi gli sviluppi tecnologici e di espansione industriale in Italia. Qual è la sua risposta in materia? Diciamo che io ormai mi sono convinto che il mondo dell'associazionismo ambientale, ecologico, è almeno 30 anni, 40 anni avanti rispetto, come visione sto dicendo, rispetto, sì, ai nostri politici. Per cui è come se noi riuscissimo a vedere oggi l'inutilità di queste opere tra 30, 40 anni. Un esempio può essere la TAB, ma può essere anche, diciamo, il ponte sullo stretto di Messina, dove noi abbiamo, esatto, quello, che magari parliamo di quello perché è più vicino a casa nostra, però esatto, poi il senso, diciamo, dell'argomento non cambia. Cioè oggi praticamente la gente si sposta prevalentemente con l'aereo, per cui diciamo si viene dalla Germania in Italia in un'ora, ok, con servizi, diciamo, efficienti e quant'altro. Sì, si potrebbe argomentare sul fatto che magari potrebbe servire un'opera di questa a trasporto delle merci, però pure lì, quando ci sono politiche di comunque consumo delle merci a chilometro zero, pure in quel caso diventerebbe, come dire, inutile. Ora, noi sul ponte, diciamo, il punto sul quale ci siamo attaccati è stato che è inconcepibile argomentare su un'opera faraonica di questo tipo, quando poi in Sicilia sappiamo benissimo che ci sono ancora tratte con binario unico. Laddove c'è il binario unico, molte volte questi binari non sono sicuri, sono come, diciamo, nella zona qui vicino anche a Cefalù del Messinese, per cui sarebbe più interessante semmai discutere: prima costruiamo una rete ferroviaria efficiente, dopodiché magari ragioniamo su come collegare la Sicilia al resto dell'Italia. Non può essere prima il ponte e poi la rete ferroviaria. La fermo un secondo per un'altra riflessione, sempre venite giustamente o ingiustamente, poi si sta lì, insomma, se ci dividono, come dire, le colpe e le discolpe, da parte il ping pong famoso, no? O gli scaricabarile, che in Italia ormai è diventata una prassi consolidata. Colpa della regione, no? E colpa di Bruxelles, no? Bruxelles e Roma, Roma e Bologna, non si capisce mai di chi sia la colpa fondamentale. Fatto sta comunque che siete benemeriti, nel senso che avete la lente di ingrandimento su quella che è lo status quo della flora e della fauna in Italia, e quindi siete delle sentinelle straordinarie, perché comunque denunciate fatti e misfatti. Vedi per esempio le discariche di cui tanto si parla in Campania, ma anche su al nord, in Sicilia un caso è scoppiato ultimamente a Bellolampo, Palermo è in queste condizioni, anche lì voglio dire Legambiente ha fatto la sua parte, anche il WWF per quanto attiene la parte boschiva della fauna, che è qualcosa di straordinario. Una domanda però mi sorge spontanea, ed io la penso in un certo modo, e non posso dirlo perché sono un conduttore e non vorrei influenzare l'opinione pubblica, però c'è il fatto delle bollette carissime della luce. Stiamo parlando delle famose centrali nucleari. Ci sono i fautori, chi vorrebbe che si facessero in Italia 4-5 centrali nucleari per l'abbattimento verticale delle esose bollette, le paghiamo perché importiamo materia prima che non abbiamo in Italia, ahimè. Dall'altra parte, giustamente, anche un altro modo di vedere, ci si può confrontare, si può disquisire quanto si vuole, però bisognerebbe trovare un punto d'accordo. Perché la gente non ce la fa più a pagare bollette di 150, 200, 300 euro, quando in Francia, quando in Giappone, in altri paesi, sia europei ed extraeuropei, le bollette sono meno esose. Voi rispondete spesso: ci sono le fonti alternative, tipo il fotovoltaico, tipo l'eolico, eccetera. Ma anche lì poi subentrano altri fattori di impatto ambientale. No? I pannelli solari messi in un certo posto potrebbero deturpare, occultare, eccetera. Le paleoliche, vedi quelle che abbiamo nelle Madonie, vanno a deturpare il paesaggio che ha un certo fascino. E allora, il punto di vista del presidente di Legambiente Mannonia, qual è il suo punto di vista, presidente? Diciamo che relativamente al problema energetico, anche all'interno dell'associazione, ci sono diversi punti di vista, almeno due punti di vista. C'è il punto di vista categorico no al nucleare, e poi c'è un altro punto di vista che comunque ha una certa apertura verso il nucleare di terza generazione, per cui il nucleare, diciamo, con scorie pulite, possiamo dire, anzi che non produce scorie. Io personalmente ritengo che il momento del nucleare cioè si inseriva in un percorso ben preciso in Italia, che è venuto a mancare con la mancanza del piano energetico, perché ancora oggi l'Italia si può dire che non ha elaborato un piano energetico, per cui ha stabilito scientificamente ci serve 100 di energia, per cui 30 lo produciamo col nucleare, 10 lo produciamo con l'idroelettrico e via dicendo. Ora, in questa diventa veramente difficile capire in che misura, cioè, l'utilizzo del nucleare può servire per soddisfare il fabbisogno energetico, perché sarebbe anche impensabile dire da oggi iniziamo a produrre energia col nucleare, sapendo benissimo che comunque il nucleare ha anche un periodo di tempo necessario per la sua realizzazione. Sicuramente in un paese come il nostro, paese quindi Italia, che 365 giorni all'anno sotto il sole, dove comunque abbiamo un sottosuolo molto dinamico, in termini comunque voglio dire di quelle che potrebbero essere potenzialmente le energie che si possono, diciamo, ricavare con la geotermia, eccetera eccetera, bisognerebbe ragionare su come andare, come dire, ad integrare queste diverse risorse che abbiamo per arrivare, diciamo, a produrre quanto più possibile da fonti sicuramente rinnovabili. Quindi questo, diciamo, è il mio personale punto di vista. Ritengo che il nucleare, ma diciamo anche gran parte degli scienziati ormai lo sostengono, sia una fonte superata, vecchia, che si inseriva, diciamo, in un particolare periodo di crescita della storia del mondo. Quindi 30 anni fa aveva un senso, in Germania lo hanno fatto 30 anni fa, in Francia lo hanno fatto 30 anni fa, e lì loro hanno utilizzato queste tecnologie per avviare poi un processo di conversione verso le fonti alternative. Per quindi cui lei sostiene che sì, è anacronistico oggi parlare oggi di... è anacronistico, diciamo, è stato, come dire, un percorso visionario in alcuni paesi europei che si inseriva in una fase, diciamo, del loro sviluppo dove si doveva produrre un certo quantitativo di energia per poi fare il passaggio alle fonti alternative. Oggi in Germania, cioè, è paradossale dirlo, non hanno sicuramente le nostre caratteristiche, come dire, ambientali come risorse di sole, di quant'altro, però diciamo hanno producono molto più energia, ad esempio sfruttando il sole rispetto a noi. Un'ultima domanda, poi entriamo nel merito della puntata odierna, cioè di questa iniziativa da parte di Legambiente e la sensibilizzazione e la sensibilità anche nei confronti degli ipovedenti e dei non vedenti, chiamiamoli così, i cosiddetti ciechi, che non si usa più questa terminologia, certo, grazie a Dio, ma si usano altri aggettivi per sottolineare l'handicap di una persona. Persone peraltro molto sensibili, sì, sì. Persone che hanno sviluppato un senso di appartenenza alla propria categoria e che comunque amano la natura, amano il mare, non si fanno mancare nulla nonostante, ahimè, manchi la telecamera che inquadri gli scenari più belli che noi abbiamo nel mondo. Fatta questa premessa, tra poco parleremo di questa grande iniziativa, appunto, che partirà domenica 1 e lunedì 2 luglio da Legambiente, organizzato peraltro, bisogna dirlo, dovremmo sentirla tra poco al telefono, dalla dottoressa Paola Castiglia, che sta, insomma, dando l'anima per coinvolgere in questi due giorni nei percorsi itineranti che si sono fatti all'interno di alcuni come dire, location straordinari allocati in alcuni parchi della Sicilia e non solo. Ma mi premeva farle un'altra domanda, dottore. Io amo capire quello che una persona fa nella vita, e se parla di ambiente voglio capire fino a che punto si spinge per la salvaguardia del medesimo e a quali costi. Tra 10-20 anni circa, dicevano dei colleghi di Levatura Nazionale su mass media, su una trasmissione scientifica, il famoso petrolio, visto il crescere in maniera esponenziale della demografia mondiale, dei popoli, si parlerà di 6-7 miliardi, insomma saremo abbastanza, e in questo poi c'è l'India, la Cina che stanno crescendo ancora di più, e crescendo non soltanto sotto il profilo demografico ma anche sotto il profilo economico, e questo comporta sprechi di macchine, energia e quant'altro. Tra 20-30 anni, io non so se ci sarò più, ma mi auguro, insomma, mia figlia, sua figlia, i nostri consanguinei che lasceremo qui a testimonianza del nostro presente e passato, e saranno il nostro futuro, cosa pensiamo di poter lasciare a questi giovani di domani, quando il petrolio, ahimè, non ci sarà più? Diciamo che questa è sicuramente una delle responsabilità maggiori che abbiamo. Noi da 30 anni predichiamo, ci facciamo portavoci di questo concetto di sviluppo sostenibile, cioè dove per sviluppo sostenibile si intende, cioè, pensare oggi, nel momento in cui si utilizza una risorsa, alle generazioni che ci saranno in futuro. Purtroppo è un problema ecologico, essenzialmente ecologico. Io personalmente ritengo che il pianeta Terra può ospitare un certo numero di persone, e questo numero di persone è stato abbondantemente superato e sarà superato sempre di più negli anni, diciamo, a venire, perché comunque è inevitabile e innegabile questa crescita demografica esponenziale che abbiamo. Sicuramente il problema della mobilità è uno dei problemi che alla fine coinvolge tutto, perché oggi nel momento in cui si interrompe la mobilità si interrompe il trasporto di merci, si interrompe il trasporto di servizi, si interrompe la possibilità stessa di poter lavorare. Siamo fiduciosi perché comunque vediamo che qualche cosa si muove nel mondo. Io leggevo l'altro giorno che Mercedes, e dispiace comunque che le grandi aziende che sono il fiore all'occhiello, diciamo, dell'Italia, che gravano anche pesantemente sulle tasche dei nostri contribuenti, vedi Fiat, eccetera, eccetera, ancora non lo hanno capito. Ed è un problema anche vicino a noi, che ci tocca direttamente a Termini Imerese. Dicevo che leggevo l'altro giorno che Mercedes nel 2015 consegnerà in Germania i primi 50 punti di distribuzione di idrogeno, ok? Toyota... Energia pulita per la mobilità. Stiamo discutendo che Toyota già da qualche anno commercializza macchine ibride. Quindi stiamo andando verso un altro sì, sistema. Sì, diciamo. Dovrebbe esserci al telefono Francesco Lama? Ah, la dottoressa Castiglia, d'accordo, va bene, no, c'era uno scambio di posizione di classifica, tutto qui, niente di che. Ok, va benissimo, visto che siamo in tema, era giusto che si chiamasse la dottoressa Castiglia, ti ringrazio, è stata una mia defiance. Allora, la fermo un attimo perché bisogna, intanto ringrazio e saluto la dottoressa Castiglia per il suo intervento. Buongiorno a lei, dottoressa. Allora, do lettura di quello che è il vostro comunicato, quindi dalla domenica e lunedì dall'1-2 luglio Lega Ambiente presenterà a Cefalù i due percorsi per non vedenti e ipovedenti realizzati nell'ambito del progetto Solidarietà e Ambiente, attraverso il quale sono stati realizzati i primi itinerari ad alta fruibilità per soggetti con disabilità visive in aree di importante valenza naturale della Sicilia. I percorsi sono stati creati nella riserva di Macalube, sembra un posto sperduto chissà in quale parte del Messico, no? E invece ad Aragona, in provincia di Agrigento, se non erro mi correggete se sbaglio, gestita Lega Ambiente Sicilia e nel parco urbano della Rocca di Cefalù, gestita fino al 2007 dall'associazione del CIGN. Allora, dottoressa Castiglia, da dove le nasce o dove vi nasce l'idea di fare questo percorso a favore dei nostri amici che, ahimè, hanno perso la possibilità di mirare quello che è il nostro mondo visivo? Ma qua diciamo che io sono chiamata in causa perché effettivamente l'idea è stata mia, un po' perché durante i nostri percorsi di vita penso che raccogliamo esperienze, raccogliamo cose insomma che poi riserviamo, e a un certo punto vengono fuori, come se aprissimo tanti cassettini e tirassimo fuori delle cose che poi compongono un puzzle unico. Io ho fatto, prima di essere impegnata in Lega Ambiente, dove sono impegnata ormai da tanti anni, ho fatto però il servizio civile volontario per l'Unione Italiana Ciechi. ho imparato delle cose, ho imparato un certo modo di comunicazione, ho imparato anche i bisogni che le persone non vedenti a volte hanno, bisogni a cui di tanto in tanto si dà risposta, molto più spesso invece risposte non se ne danno. Probabilmente memore di tutte queste cose, insomma, che avevo, anche se ormai sono passati veramente tanti anni, però che avevo raccolto all'Unione Italiana Ciechi, quando ho scoperto che c'era la possibilità con un progetto di perequazione del CESVOP mettere insieme l'idea di fruizione di ambiente, di conoscenza dell'ambiente, della biodiversità e anche così dell'importanza della salvaguardia dei nostri beni ambientali con un progetto per la perequazione di chi diciamo aveva una disabilità, mi è subito venuta in mente la possibilità La fermo un attimo, dottoressa, perché stiamo mandando in onda delle immagini straordinarie. Si vede lei che sta aiutando un ipovedente o un non vedente a toccare le pietre di una casa. Sì, forse questa, conosco questa foto, non sono io, ma era una delle volontarie. Sì. Il messaggio è quello comunque, sì, voglio il messaggio dire. È quello, sì. Quindi diciamo chi ci sta seguendo può vedere effettivamente quello che fate voi. Esattamente, sì. Tra l'altro è importante sottolineare una cosa, che il senso della vista, questa è una delle cose che i non vedenti non si stancavano mai di dirmi quando lavoravo per loro all'Unione Italiana Ciechi, la vista è il nostro senso più invadente. Ed è vero, perché se noi proviamo a bendarci per un pomeriggio, scopriremo che il mondo è fatto in modo completamente diverso da come noi spesso ce lo figuriamo con i semplici occhi, perché gli occhi ci mostrano delle immagini che sono facilmente traducibili e quindi molto spesso non abbiamo bisogno di andare a toccare quella cosa, andare ad assaggiarla, sentirne l'odore. È vero. Quindi cosa succede? Che noi conosciamo il mondo solamente per quello che ci raccontano i nostri occhi e molto meno per quello che ci raccontano gli altri quattro sensi. Quello che noi vogliamo dire con il progetto Solidarietà e Ambiente è che il mondo si può conoscere, si deve conoscere e si deve fare in modo che ci siano gli strumenti per rendere questa cosa possibile anche attraverso gli altri quattro sensi. E che la disabilità visiva non è una disabilità per forza diciamo che deve fare da barriera per la conoscenza, anzi tutt'altro, è importante che si inizi a guardare con altri occhi, come abbiamo detto noi con uno slogan così che abbiamo utilizzato per il progetto, e a vedere con altri occhi, perché è possibile anche attraverso le nostre mani, attraverso l'olfatto e attraverso i sapori, conoscere il mondo, conoscere l'ambiente e salvaguardare la biodiversità. Dottoressa Castiglia, intanto io credo che a lei vanno il nostro plauso e i nostri applausi. Grazie. Perché io credo che nella vita bisogna avere delle sensibilità, indipendentemente se una persona sta bene fisicamente, non accorgersi delle altre persone che non stanno bene o che hanno degli handicap, solo quando tocca a noi puoi avere degli handicap. Lei ha sfondato una porta aperta, perché anch'io come lei in quelli di Frosinone sono stato molto vicino all'Associazione Italiana Ciechi, per cui so quanta sensibilità loro hanno nei confronti del territorio, nei confronti della musica, nei confronti anche del cinema, della lettura, per cui sono esseri assolutamente straordinari, con l'unica problematica che appunto non riescono a percepire visivamente quello che noi, grazie a Dio, ancora riusciamo a percepire. Quindi a lei e alla sua organizzazione va un grazie di tutto cuore per questa grande sensibilità, per questo modo diverso di approcciare e di immettere nel cosmo, nella natura, e dare la possibilità a queste persone di avere, come dire, l'opportunità di gustare, giusto il termine, io credo, di gustarsi la natura a pieni mani e non soltanto con gli occhi. A volte noi che siamo vedenti passiamo da un posto, magari non ci accorgiamo che ci sono, eccola lì, c'è la sua foto adesso finalmente mandata in onda alla regia, che ringrazio per la sua attenzione. E dicevo, a volte è importante fermarsi nei dettagli. Noi vedenti spesso e volentieri magari passiamo da una costa, passiamo davanti a un castello, sì, che è bello, che tiriamo avanti, magari la persona che non ha più la possibilità di vedere, di deambulare, o ha qualche altro handicap o sta male di salute, possibilmente percepisce meglio, approfondisce meglio rispetto a noi che siamo superficiali, quelli che sono gli aspetti più belli che il mondo ci riserva. Non so se lei è d'accordo. Sì, diciamo che in buona parte sono d'accordo. Dottoressa Castiglia, se vuole aggiungere altro per questa manifestazione, siamo a sua disposizione. No, semplicemente, ecco, io vi ringrazio perché ringrazio lei perché mi ha, diciamo così, fatto i complimenti per l'iniziativa. Vorrei dire però che chiaramente io non sono stata sola, anzi ho avuto una squadra molto, molto forte alle spalle che ha permesso che tutto questo fosse, fosse possibile. Quindi io vorrei ringraziare intanto Claudia Casa, Salvatore Culotta, Tina Bianca, Tommaso Castronovo, insomma le persone, Gianfranco Zanna, le persone che in prima linea sono state presenti in questo progetto. Poi sicuramente l'Unione Italiana dei Ciechi e dei Non Vedenti, il CESVOP e anche il Comune di Cefalù che è partner dell'iniziativa. Insomma, dimentico ovviamente qualcuno perché è sempre così, però è importante dire che il lavoro è stato fatto, mi permetto di dire bene, perché si è fatta squadra e questa per una volta davvero ha pagato e ha permesso di creare due percorsi che secondo me per la Sicilia, non soltanto per i luoghi dove sono stati fatti, sono due percorsi veramente molto importanti. E in ultimo ovviamente un ringraziamento alla Sicilia Braille di Catania, attraverso la quale è stata possibile proprio la creazione dei percorsi. Dottoressa Castiglia, io non volevo sminuire assolutamente l'apporto degli altri suoi collaboratori, tra l'altro il dottor Culotta è qui al mio fianco, persona amabilissima e disponibilissima a dare tutte le spiegazioni alle domande che un giornalista pone, ma oltretutto voglio dire, è positivo che a lei sia venuta questa idea, ma è ancora più bello che anche il Comune di Cefalù e tutti gli enti che si sono aggregati a voi abbiano contribuito alla buona riuscita, sicuramente lo sarà, di questa stupenda idea e meravigliosa manifestazione. E se non altro da aggiungere, io la saluterei ringraziandola per il tempo che ci ha dedicato. Grazie e le auguro. No, ringraziamo lei perché insomma di persone come lei ce ne vorrebbero a iosa in questo mondo e chissà troppo che buone. Forse non cambierebbe meno. Ci vuole una certa sensibilità e quando delle persone questa sensibilità la estrinsecano sarebbe opportuno osservarle e perché no, non solo dargli una mano ma far partire altre iniziative verso altre persone che non hanno avuto la stessa fortuna che noi fino ad oggi a meno abbiamo. Grazie dottoressa Castiglia. Buona giornata. Le auguro buon lavoro. Grazie, a presto. A presto a lei. Allora, dicevamo, ecco, c'è il tutto finale della telefonata, ha chiuso il telefono giustamente la dottoressa Castiglia, che ha ringraziato anche il qui presente dottor Culotta Salvatore, che essendo responsabile dell'ambiente Madrid, insomma, ha dato una grossa mano, di questo lo ringrazio anch'io a titolo personale, perché ho avuto un'esperienza straordinaria vicino a queste persone che ritengo abbiano anche i loro pregi e difetti come tutti gli esseri umani, però la mancanza, non amano vivere nella pietà, ecco, loro sono esseri normali, lavorano, studiano, hanno famiglia, chi si accompagna col cane, col pastore tedesco o anche cani più di diversa qualità, ma di diversa razza, scusi. Ma fanno una vita del tutto normale, c'è chi insegna, c'è chi suona, c'è chi recita, insomma voglio dire, hanno una vita piena, grazie a Dio, non si abbattono mai. La fermo un solo istante perché devo, a proposito di fotovoltaico eccetera, beh, noi senza pubblicità non possiamo lavorare, lo dicevo prima, allora vi ricordo, le bollette dell'Enel sono molto esose ultimamente perché noi importiamo il greggio ha i suoi costi e per cui allora cosa bisogna fare? Non bisogna disperarsi, chiamare l'800111341, vi risponde Medielettra di Badalamenti Angelo. Cos'è Medielettra? È un'azienda leader a livello regionale che collabora con l'Enel, per cui di tutta garanzia. E voi chiamate questo numero verde, i tecnici e i progettisti verranno a casa vostra, impianterete su suggerimento dell'azienda questi fotovoltaici che non sono altro che i pannelli solari, dopodiché la vostra bolletta verrà quasi del tutto decurtata, ma il surplus, cioè quello che voi producete in più, l'Enel ve lo rimborsa. Più di questo cosa vi devo dire? Ricordate questo numero verde 800111341, Medirete, lo trovate in via Ugo La Malfa 61 BCD a Casteldaccia in provincia di Palermo. Allora sarebbe, no c'è un'altra, questo è importantissimo. Allora io amo molto leggere, non so lei dottore se legge abbastanza, credo di sì, perché insomma, bisogna aggiornarsi, la lettura oggi è stata messa un po' da parte, noi italiani non siamo grandi lettori come i britannici, come gli americani, i francesi, gli spagnoli, leggiamo molto poco ed è un guaio, bisogna leggere sempre di più, ma non tanto per dare la possibilità allo scrittore di guadagnare i suoi diritti, ma perché sì, chi legge fa due cose, dà nutrimento al cervello e apprende delle cose che magari in televisione televisione, in radio, non si possono apprendere, non abbiamo degli scienziati sempre a portata di mano. E invece un buon libro, a seconda delle tematiche che uno tratta, può darti un input in più, e poi tiene in movimento il cervello. Mens sana in corpore sano, dicevano i latini, quindi chi meglio della lettura. E poi non solo ti erudisce, ti forbisce culturalmente, ma ti consente di parlare un discreto italiano senza fare delle sbavature, soprattutto nei congiuntivi, no? E sono straordinari. E allora io do la linea un attimo alla regia per la pubblicità, rientro, dovremmo sentire questo, il regista Francesco Lama, reduce dal Festival di Taormina, lo sentiremo tra poco, intanto linea alla regia e noi ci sentiamo tra poco. Nostro Watch, tempo reale, siamo rigorosamente in diretta, abbiamo dall'altra parte del telefono un regista che insomma ormai comincia a far parlare veramente di sé, ha fatto delle cose molto belle, le enucleiamo qualcuna, abbiamo l'ultimo che ha presentato anche al Festival di Taormina, un cortometraggio in bianco e nero che sicuramente avrà un grande successo. Sto parlando del regista, di Francesco Lama, che ringrazio e saluto per aver accettato l'invito. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Francesco, insomma tu hai fatto delle cose molto belle, a Brolo con la Valerio Marini, poi hai fatto il Faro con degli attori straordinari, insomma anche siciliani, ma non solo. Stai crescendo in maniera esponenziale, questo a noi fa piacere, siamo tuoi amici, ma la cosa più bella, insomma l'abbiamo visto l'altro giorno a Taormina, sei stato premiato, il tuo cortometraggio, il tuo lavoro, hai chiamato il casting sul palco, lo hai ringraziato, insomma hai fatto delle cose straordinarie. Da questo punto di vista, secondo te è un lavoro che ancora di più al di fuori della Sicilia possa avere delle valenze, oppure perché siamo stati premiati perché siamo in Sicilia? Io vorrei capire da te, che sei un addetto ai lavori, qual è il tuo pensiero? No, guarda, assolutamente non siamo stati premiati perché siamo in Sicilia, perché questo un festival del genere non può assolutamente premiare per farti un favore perché sei siciliano. Il direttore artistico del festival, Mario Sesti, ha fatto una selezione sui migliori lavori fatti l'ultimo anno in Sicilia e quindi ci ha scelto. Di questo sono molto, come dire, felice e contento di questa partecipazione al Festival di Taormina. Quindi è una cosa molto importante, anche perché non finisce tutto a Taormina, anzi possiamo dire che inizia, perché già da stasera a mezzanotte siamo dal Rai 1, da Gigi Marzullo, nella trasmissione cinematografa. Quindi voglio dire, sta avendo una certa cassa di risonanza. Io, come dicevo prima, devo ringraziare, oltre te che fai parte anche del cast, diciamo, tutti quelli che hanno partecipato. Mi spiace che non c'era Taormina il principe Filiberto, perché si trova in India per un altro lavoro, quindi ci sarà occasione sicuramente per presentarlo. Ma c'eri tu, c'era Dani Sperandeo e tutti gli altri, Amabile di Gangi, voglio dire, abbiamo presentato il cast quasi al completo, quindi sono contento. Diciamo che sei stato tu il collant, no? Con il quale ci ha diretto in modo straordinario, e se poi è venuto fuori un buon prodotto sicuramente noi abbiamo lavorato, ma chi ha dato l'imprimatur, chi aveva la bacchetta del direttore d'orchestra, insomma il bravo va detto sempre, soprattutto a te e a Gio Castellano, che ha fatto una colonna sonora straordinaria. Gio Castellano, l'autore delle musiche, lo ricordiamo, infatti, è stato straordinario. Senti, io, come detto al festival, ho rischiato, perché fare un film in bianco e nero è sempre rischioso, ricordare la Sicilia degli anni 50-60 è ancora più rischioso, però ho visto, come hai visto tu e tutte le persone che erano presenti, che è stato apprezzato, quindi... No, senza dubbio, ti volevo chiedere, la critica invece come si è mossa nei confronti del film? La critica è stata, come dire, benevola nei nostri confronti, infatti se vediamo anche i titoli del TG3 oppure i servizi TG2 ed altre, la Repubblica, voglio dire, hanno parlato bene sulla qualità del corto e anche sulla quindi storia. Un plauso va dato anche ai cameraman che hanno lavorato, no? Insomma, sì, un plauso va a tutto montaggio. Perché un film l'ho scritto, l'ho diretto, l'ho costruito, ma l'ho fatto assieme a tutti, quindi non è solamente un mio film. Sono stati io tutti, mi però permetto di dirti intanto. Io adesso non sono a Taormina perché andrò nel pomeriggio, adesso sono a Naso, che è il mio paese, il mio paese dove abito, sono anzi per l'esattezza al Caffè del Corso, dove gli amici mi hanno ospitato gentilmente, il bar di Massimo, Dora, c'è anche Eugenio. Salutami i tuoi amici. Francesco, saluto tutti perché mi sostengono anche loro in questo, te li saluto sicuramente. Allora, Francesco, un'ultimissima domanda e poi chiudiamo, perché sono veramente a foto finish sulla trasmissione. Ti volevo chiedere questo: progetti per il futuro, ne hai nel cassetto qualche sogno da ancora realizzare? Per la verità il cassetto è pieno, bisogna vedere, ci sono una serie di problematiche per uscire solo dal cassetto, comunque ci riusciremo sicuramente. Intanto stiamo mandando in onda una foto di te che stai parlando con Tony Sparandeo, ma questo è tratto da un altro film che tu hai fatto. Com'è, la foto è bella almeno. Sei molto bella, le ragazze usciranno pazzi per tutte e due. Ma io insomma, non posso più occuparmi delle ragazze. Hai ben altro a cui pensare. Va bene Francesco, tantissimi auguri, in bocca al lupo per il tuo lavoro, ben fatto devo dire, ben diretto, e ti auguriamo tutti quanti noi del cast che ti siamo stati vicino, intanto grazie per come ci hai diretto, per la bontà che hai messo nei nostri confronti, per averci sopportato, perché insomma qualche marachella l'abbiamo fatta anche noi, però dal canto nostro sappi che ti vogliamo bene, ti auguriamo ogni fortuna e gloria. Ok, vi ringrazio, un bacio a tutti. Ciao, grazie Francesco. Ciao, grazie. Allora, rientriamo nei meandri della discussione di prima, abbiamo messo un po' da parte, ma non è il caso assolutamente, anche perché lui è 1,90 m, come fai a metterlo da parte il dottor Culotta? Dottor Culotta, prima di chiudere la trasmissione, mi premeva farle una domanda, mi aveva fatto cenno lei fuori onda prima, di parlare di questi percorsi. Ecco, perché avete scelto proprio questi tipi di percorsi? Diciamo che la scelta dei percorsi essenzialmente è stata fatta, diciamo, ragionando sul fatto che comunque noi siamo gestori di 7 riserve naturali in Sicilia, Macalubbe di Aragona è una di queste, per cui abbiamo scelto, diciamo, una delle 7 riserve, e poi la scelta è ricaduta sulla Rocca di Cefalù, perché a Cefalù, sempre con la Lega Ambiente, però con la Lega Ambiente Turismo, si era intrapreso un percorso virtuoso con alcuni alberghi che sono stati certificati dal punto di vista ambientale, perché comunque riducono le emissioni, gestiscono indifferenziate rifiuti, hanno risparmio idrico ed energetico e via dicendo. Per cui su Cefalù ci è sembrato utile, come dire, attribuire un valore aggiunto maggiore con l'ideazione di questo itinerario. Quindi alle Macalubbe essenzialmente è un itinerario di carattere geologico, perché lì la riserva comunque è interessata da questo fenomeno di vulcanesimo superficiale sedimentario, ci sono appunto dei vulcanelli di fango, è un territorio molto dinamico, sempre soggetto, diciamo, a variazioni estetiche, per cui non è mai uguale da un giorno all'altro. Sulla Rocca di Cefalù invece l'itinerario è come dire misto, per cui c'è una parte di itinerario che è storico-archeologico, perché comunque sopra il promontorio sappiamo che è interessato da una serie di manufatti di grandissimo pregio, che si unisce poi ad un itinerario naturalistico, quindi dove abbiamo individuato alcune specie di piante particolari che vengono fruite, possono essere fruite da non vedenti e dagli ipovedenti, anche, diciamo, la fauna tramite delle tabelle comunque che riproducono le sagome degli animali, via dicendo. Ok, prima di salutarla io volevo ricordare ai radioascoltatori, latte Bergi è importantissimo a Castelbuono, lo vedete addirittura mungere, pastorizzato, non scremato, intero, e poi gli yogurt che sono veramente meravigliosi, alla banana, frutti di bosco e fragola, lo trovate in via Geraci proprio all'uscita di Castelbuono, è un'azienda zootecnica straordinaria. Poi per chi ama la lettura, bene, insomma, abbiamo a Castelbuono una vetrina straordinaria con migliaia e migliaia di libri, con lo sconto in tutti i libri del 10% in questo periodo, stiamo parlando di Edicole Barreca in via Umberto 1 38 a Castelbuono. Per informazioni 0921 671 574, oppure info@ mondobarreca.it, Edicola Barreca, dove a Castelbuono naturalmente tutti i libri straordinari, non ce n'è uno che non si possa leggere, dalla gastronomia a finire ai bestseller. Per cui vi ricordo Edicole Barreca, via Umberto 1 38 a Castelbuono. Bene, la nostra puntata giovedì in diretta si conclude qui. Io ringrazio intanto gli ospiti che sono intervenuti, il dottor Barreca e il dottor Colotta, che è il presidente di Lega Ambiente Madonia, la dottoressa Paola Castiglia, che ha organizzato di concerto con il dottor Culotta, e non solo, con altri collaboratori, con il Comune di Cefalù, questa iniziativa benemerita per i non vedenti su questi itinerari di cui prima parlava il dottor Culotta. Ci saranno sicuramente nel futuro altre iniziative. Il professor Luciano Burrieschi, abbiamo parlato di scuole alberghiere, abbiamo parlato di gastronomia nel periodo estivo, di quello che era la gastronomia siciliana, con Il dottor Francesco Lama invece, abbiamo affrontato il tema di questo film, questo cortometraggio in bianco e nero che rispecchiava un po' gli anni 60, 50-60, girato a Castelbuono e poi portato in giro per tutte le grosse manifestazioni nazionali ed internazionali. A Taormina ha già preso un premio e ha detto, come avete sentito, non finisce qui, speriamo che abbia fortuna, non soltanto perché ci sono io nel film, ma perché è un lavoro veramente fatto bene. Io vi do l'appuntamento per domenica alle 9.30 per la replica e per giovedì prossimo sempre per la diretta. Da parte di Filippo Glorioso un grazie ancora anche a voi che ci avete seguito, un grazie anche a Enzo che ci chiama da Pinerolo e dice che tra 37 giorni sarà qui nella nostra medamata Sicilia, quindi salutiamo gli amici anche di Pinerolo e tutti coloro i quali ci ascoltano anche fuori dalla Sicilia via internet. Vi ricordo la registrazione, potete andare su www.crmepiradio.it, andate su podcast, repliche e lì potete ascoltare a carta e penna tutte le puntate precedenti, comprese quella di oggi. Grazie a tutti, a domenica per la replica, un abbraccio e buon fine settimana. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione.